Beh, come nasce? Diciamo che io penso che, no, non io ovviamente, insomma, ma altri più importanti di me, tipo Freud, pensano che la barzelletta sia una, come dire, un territorio nel quale possiamo scambiarci delle esperienze. E quindi la barzelletta è un po' come i sogni, nel senso che se io mi sogno che ammazzo tua suocera, non no, è va che là, poveretta, dopo... aspetta. No, infatti, no, non è che però il giorno dopo mi, cioè, mi arrestano e mi metto in galera. Sì, quindi è una sorta di pace libera tutti, terreno libero. Sì, no, cioè, è un gioco, sì, effettivamente sì. Questo lo dice non Freud, ma Gregory Bateson. Dice che appunto la barzelletta è un gioco nel quale giochiamo insieme. Allora, barzelletta, c'è un italiano, un tedesco, un giapponese, ce ne sono tante che hanno dei fili conduttori comuni. Le tue di cosa si occuperanno? Le mie si occupano del il personaggio che le racconta, come dire, il problema che si pone è la destinazione, cioè dove vanno a finire le storie. E quindi è un ferroviere che pensa al biglietto, proprio al biglietto del treno. La destinazione dell'uomo e della donna, insomma, quindi dove andiamo a finire quando raccontiamo una storia. Certo, indubbiamente presente sul palcoscenico di Castel d'Argile, riuscire a mettere in scena tutto ciò anche con la musica. Ci puoi parlare della colonna sonora anche? Interessante che tu dica colonna, no? Perché effettivamente nel cinema è una parte, come dire, a parte rispetto al film, insomma, nella costruzione della pellicola. E il musicista col quale lavoro, ci lavoro ormai da almeno 20 anni, che è Gianluca Casadei, come dire, fa un lavoro di improvvisazione. Io improvviso con lui e lui improvvisa con me, e questa cosa qua, come dire, dà un senso, un significato ai racconti che da soli non farebbero molto di più, ma messi insieme, come dire, c'è questa sorta di relazione che gli dà un po' di senso in più. Certo. Geograficamente ovunque sto leggendo, dalla Francia al Belgio, un racconto di una lite in casa di Sardi, e chi più ne ha più ne metta, insomma, si arriva ovunque con le tue barzellette. Eh sì, perché la barzelletta è come una fiaba, cioè nel senso è un racconto orale, per cui ci abbiamo versione di fiabe di Cappuccetto Rosso, ci abbiamo delle versioni russe, italiane, cinesi, e quindi anche barzellette, abbiamo versioni differenti, e noi cerchiamo di lavorare su questo, insomma, su le differenti versioni, e cercando di raccontarle in maniera tale che ci abbiano ancora un senso oggi in questo nostro presente. A proposito di presente, abbiamo parlato di spazio, parliamo anche di tempo nella barzelletta o nella tua narrazione, quindi anche in questo caso rompere gli steccati e totale libertà anche nel tempo. Beh sì, anche perché appunto, come dicevo prima, ci sono due tempi, no? Un tempo è il tempo del racconto e un altro tempo è il tempo del racconto del presente. Il tempo del racconto è quello, come dire, come sei capace di raccontare una barzelletta. Il tempo nel presente invece è come questa barzelletta in qualche maniera, come dire, svela qualcosa che non comprendiamo ancora.